100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Com'era ampiamente prevedibile, la sentenza della Corte Costituzionale che impone di restituire ai pensionati la mancata rivalutazione degli assegni di importo superiore a circa 1.400 euro al mese sta creando non poche inquietudini all'interno del governo. L'indicizzazione al costo della vita di queste pensioni era stata bloccata nel 2012 e nel 2013 con il decreto Salva Italia del governo Monti. Ancora nessuno sa con certezza quale sarà il costo di questa operazione, ma già ministri e sottosegretari stanno mettendo le mani avanti per limitare i costi. L'idea che si sta facendo strada è quella di utilizzare un decreto legge da approvare tra qualche settimana, dopo le elezioni regionali di fine mese, per dimezzare il numero dei beneficiari e l'impatto sulla finanza pubblica. L'ipotesi più gettonata è quella di modulare i rimborsi per fasce di reddito, in modo da garantire la restituzione integrale dell'inflazione persa negli anni 2012 e nel 2013 solo alle pensioni di importo più basso, e quelle appunto da 1.400 euro circa. Il tema naturalmente è delicato, perché la sentenza della Corte non può essere disattesa, e a dirla tutta, per il governo non sembra facilissimo tenere insieme tre esigenze apparentemente incompatibili tra loro: rispettare appunto la sentenza della Corte, ridurre al minimo l'impatto sui conti pubblici, ma anche individuare un criterio capace di ripristinare un minimo di equità nella distribuzione dei sacrifici tra le generazioni. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. La crisi in Ucraina ha rialzato il velo sulla potenza militare ex sovietica e sui rischi che questa crisi ha per l'Occidente, soprattutto per i rapporti fra l'Europa, gli Stati Uniti e la Russia. Ma che cosa succede? Quell'immane piano di investimenti militari, erano quasi 20.000 miliardi di rubli quando 5 anni fa Putin annunciò il programma di spesa per l'ammodernamento delle forze armate. Beh, insomma, sono stati circa 650 miliardi di dollari che in 5 anni sono stati spesi. Ma era tutto qui il piano? No, in realtà siamo circa al 70%. Il motivo? Proprio quella crisi ucraina. Paradossalmente, il rallentamento economico, le sanzioni, la svalutazione del rublo hanno avuto un effetto a catena anche sulla spesa militare. Taglio degli investimenti sull'ammodernamento della flotta, taglio degli investimenti sull'ammodernamento soprattutto della flotta aerea. È forse una notizia più rassicurante di quello che temevamo se la spesa fosse salita, ma certamente dall'indice di una cosa: le tensioni non sono finite e per l'Occidente, crisi economica a parte, la questione russa si ripresenterà. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.